Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Andremo avanti con questo programma fino alle ore 21:30, ma prima c'è la sigla di questa trasmissione. Bene, questo era il brano sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. E andremo avanti con il programma fino alle ore 21:30. Ricordo che appunto siamo in diretta oggi 29 agosto 2024. Ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band inglese, band che ha avuto un breve periodo di vita, cioè tra all'incirca il 92 e il 94-95. È una band, come detto, inglese della zona di Bradford, e da un loro mini album, ci ascoltiamo un paio di brani. Parlo sopra questa breve intro e non ho detto che loro sono gli Health Hazard. Ciao a tutti, intervengo anch'io, oltre che salutandovi, anche per annunciare quello che andremo a affrontare stasera, ovvero Principalmente questo, un intreccio di storie, di due storie, la storia di una anarchica triestina contemporanea di Umberto Tommasini, Maria Simonetti, e invece una, diciamo, un contesto, un'analisi di un contesto un po' più ampio, che è quello dell'anarchismo andaluso in riferimento a un a quello che è lo spirito, uno spirito millenarista di attesa, ma anche di impazienza per la realizzazione, insomma, dell'utopia millenarista, in particolare nel contesto anarchico andaluso, sempre su per giù nei primi decenni del Novecento. Tutto questo faremo questa sera, se ce la faremo, lasciamo ancora un po' di musica. Eccoci qua, sono le 20 e 16 minuti di questo giovedì 29 agosto, ultima puntata agostana per Zardins Magnetics di questo 2024. Come sempre potete ascoltarci in diretta con la radiolina in FM se abitate in zona, altrimenti in streaming da sufficiente che abbiate un apparecchio per collegarvi a internet, altrimenti quando e come volete in podcast scaricando la puntata dal nostro blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, altrimenti addirittura canale Telegram Zardins. Ecco, per questa puntata stasera pensavo così un racconto, ecco, di queste vicende storiche, come si dice, declinate un po' al biografico, nel senso storie di vita, ma anche non solo, ecco, anche ragionamenti un po' più generali su su quali sono le spinte che portano così a ribellarsi, a contestare, diciamo, certe situazioni. Partiamo, come annunciato, da questa intervista realizzata nel 1981 in California, 22 dicembre 1981, da Audrey Goodfriend, che era una così libertaria di origine ebrea statunitense che si occupava principalmente di pacifismo, che è stata raccolta e tradotta da Claudio Venza ed è pubblicata sul bollettino dell'archivio Pinelli sul numero 58 di gennaio 2022, lì la trovate sotto il capitolo Storia orale, Maria Simonetti, da Trieste alla California, il titolo. Va bene, a noi interessava così, interessava trovare delle, eravamo alla ricerca così di fonti su sul compagno Umberto Tommasini, ma che lui, possiamo anche dire chi era, uno dei più importanti compagni anarchici della regione, per così dire, della regione nel senso che appunto era di origini, la famiglia era di origini friulane, ma è cresciuto a Trieste, ha partecipato a tutte le sommosse, le proteste dopo la fine della Grande Guerra e prima che il fascismo andasse al potere, e poi è stato costretto ha avuto varie vicissitudini, ha partecipato anche alla guerra di Spagna, alla rivoluzione spagnola, e poi appunto ha seguito le vicissitudini di quella vicenda, ovvero insomma nei vari campi profughi, vari campi prigionieri. E anche poi, insomma, nel secondo dopoguerra ha contribuito in vario modo, insomma, a trasmettere le esperienze insomma di lotta anche ai compagni, insomma, delle generazioni successive, tra i quali Claudio Venza, insomma. Questa invece, Umberto Tommasini ha appunto a un certo punto ha anche scelto anche una posizione precisa nell'ambito, insomma, come dicono i giornalacci, nella galassia anarchica, ovvero la posizione più organizzativa, diciamo così. Invece la compagna di cui andremo a parlare stasera Maria Simonetti ha avuto un'altra, diciamo, un'altra, un altro percorso. Era nata nel 1895 nell'impero austro-ungarico, precisamente a Castellier di vicino a Parenzo, in Istria. Quindi poi i genitori si sono spostati a Trieste, appunto, per motivi di lavoro, e questa compagna frequenta le scuole a Trieste, in particolare, appunto, cosa non del tutto scontata, insomma, in quel momento, insomma, quella fase storica lì. Arriva alla quinta elementare, che per quell'epoca, per quei tempi, paragonabile alla maturità, diciamo, potremmo dire, insomma, di, non dico di adesso, ma di una ventina di anni fa sicuramente. E, tra l'altro, segue frequenta una scuola in lingua, qui dicono slava, tradotto dall'inglese all'italiano, io posso sbagliare, ma probabilmente era una scuola slovena, Trieste. Io adesso potrei sbagliare, ma non mi risulta che ci fossero scuole di serbo-croato. Se lo sbaglio, fatevi vivi, chi lo sa, scriveteci. Se sapete anche notizie in più oltre a questa intervista, vuol dire aperta e chiusa parentesi. Ecco, quinta elementare, sì, una volta mica era, non c'era l'impero non so come si regolava in Italia, era così, ecco, nel Regno d'Italia non c'era l'obbligo scolastico di nessun tipo. Non so, per esempio, mio nonno è arrivato alla terza e non era, era abbastanza, era classe media mio nonno paterno, quindi, ed era più o meno di quella generazione lì, e, un po' più giovane. Torniamo a Maria Simonetti, quindi arriva all'adolescenza. L'adolescenza comincia a partecipare, parentesi, appunto, famiglia numerosa, e in quanto erano quasi tutte femmine, però lei era, non so se la prima o la seconda, adesso non mi ricordo, comunque la secondogenita, ecco, era la seconda e doveva prendersi cura dei piccoli, e quindi dice anche, non so com'è, non mi è venuta la gobba perché ero sempre con un fratello, sì, una sorella da una mano destra, braccio destro, una sorella a mano sinistra. Comunque arriva, diciamo, all'adolescenza e viene assunta ai cantieri navali di Trieste, e qui ci fermiamo un attimo per prendere il fiato. Sì, ci siamo, dai. Allora, dicevo prima, viene assunta ai cantieri navali che erano precisamente adesso, andiamo a vedere, credo cantieri San Marco, che erano appunto costruzioni di, insomma, dove si costruivano le navi, e poi sono stati smantellati completamente nel corso degli anni, sempre di più, fino appunto alla sparizione alla circa metà anni 90, del, insomma, 30 anni fa. Quel momento lì Trieste era una città fortemente industriale, con tantissimi operai, e Maria ci racconta, insomma, due episodi, le sue prime esperienze di, diciamo, politiche, fra virgolette, però appunto queste virgolette qua poi cerchiamo di capire perché. Allora, dopo la scuola, insomma, tra la scuola e il lavoro c'è anche l'avvicinamento al circolo giovanile della Camera del Lavoro, quindi in ambienti socialisti, quel momento lì, prima della Prima Guerra Mondiale, prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, ricordiamo, è nata nel 1895, più o meno coetanea di Tommasini, che dicevamo prima. Tommasini è del 96, ecco, sono andato a cercarmi la data di nascita. E, durante uno sciopero, lei aveva questa cosa che dice sempre, nelle proteste mi prendevano sempre, mi acchiappavano, perché intanto stavo sempre davanti. E poi un giorno, si ricorda, durante uno sciopero dei marittimi, è arrivata la polizia, puntò uno del suo gruppo, appunto, di questi ragazzi, ragazze dei circoli socialisti, e lei si è lanciata senza esitare, cercando di tirarlo via dagli sbirri. E pensava che anche gli altri la seguissero, così non è stato, e l'hanno portata in prigione. Racconta la sua prima esperienza in prigione, insomma, come l'hanno trattata, cioè come lei ha risposto per le rime a questi sbirri, e come l'hanno trattata, cioè gli è arrivato anche qualche ceffone, ma comunque. Ok, altro aneddoto, sempre relativo ad arresti, cose, era un carnevale dove appunto vanno in giro, cioè pensavano, insieme a questo gruppo, insomma, giovanile, pensava di andare in maschera, in giro per la città, però volevano prima andare in un paese sull'altipiano, ecco, nel Carso, e lei ha detto io vado a casa perché c'era la bora, e quindi così non ha partecipato, e i suoi compagni vanno in città e cantano anche canti anarchici. Arriva la polizia, reagiscono, i compagni reagiscono, e addirittura, insomma, stiamo parlando però prima della Grande Guerra, ecco, due poliziotti vengono uccisi, un compagno con polmone perforato portato in ospedale, tutti si accordano, il gruppo si accorda per una versione coerente dei fatti, lei viene ascoltata, insomma, come testimone, e racconta questa versione, se non che quello in ospedale ha confessato che era stato lui a sparare, e lei si prende una prima condanna per falsa testimonianza. E poi l'intervistatrice chiede un'altra cosa, insomma, fa delle domande così un po' da antropologa, e com'era in quegli anni l'esperienza, ecco, cioè l'esperienza quotidiana dell'essere militanti, insomma, di fosse socialista, comunista o anarchica. E lei dice era un tipo di esperienza molto diverso da adesso, e si discuteva intensamente, continuamente c'erano riunioni, c'erano concerti, c'erano letture, picnic, di tutto. Altra domanda che gli viene fatta, secondo me, insomma, che è un altro punto dell'intervista molto bello, che però vi leggo praticamente al prossimo intervento. Adesso lasciamo ancora un brano. E mi è venuta in mente una cosa. Secondo te, ci siamo fatti vedere abbastanza? Cioè, ci siamo fatti sentire abbastanza? Voglio dire, si è voltato qualcuno mentre passavamo, oppure siamo passati e basta? Oh, Ciccio! Non è che siamo passati. Stiamo ancora passando. Eccoci, allora stavamo leggendo questa intervista a Maria Simonetti, anarchica triestina dell'inizio del Novecento. Che cosa stavi cercando di fare? Sai, nel profondo di te stessa, cosa volevi realizzare? Dice la Audrey Goodfriend. Maria: un mondo migliore, in cui si potesse vivere meglio, in cui tutto fosse meglio, in cui le persone potessero avere una comprensione migliore delle cose. Avevi un'idea di come realizzarlo? Come pensavi di farlo? Beh, anche tu eri ancora giovane e stavi protestando da qualche parte. Mi sembra che anche tu l'abbia fatto. Certo. Ecco, noi cercavamo di fare la stessa cosa. Che vuoi che ti dica? Capire meglio le cose, avere una paga migliore, un trattamento migliore, gente migliore con cui vivere, tutto qui. Non pensavo che sarei riuscita a battere il governo o a installare al suo posto l'anarchia qui e ora. Avevi un compagno in quegli anni? Le chiede Audrey Goodfriend. No, te ne stavi ancora per i fatti tuoi. Dunque, avevo amici, sai com'è, amici giovani, e avevo un amico speciale. Era il 1918. E la cosa era abbastanza stabile, lui diceva che ci saremmo sposati, voleva sposarsi subito, ma io non volevo e gli dicevo: c'è ancora la guerra e non mi voglio legare, non voglio fare niente prima che sia finita. Questo compagno era stato esonerato dalla guerra perché lavorava ai cantieri navali. Poi, per questioni legate alla guerra, ebbe una discussione con il suo supervisore, un disaccordo, e quindi gli levarono l'esonero. Così gli dissero: adesso vai a combattere. Ma lui non andò, semplicemente non si presentò. Un giorno era lì e il giorno dopo si stava nascondendo. In ogni caso non si presentò all'esercito e se ne restò lontano dalla famiglia. Una mattina, era il 2 novembre 1918, rispuntò e mi disse: la guerra è finita. In effetti, da 2 o 3 giorni in città non c'era più alcuna autorità, niente. C'era l'esercito e si sentivano spari qui e lì perché stavano... Gli austriaci se n'erano andati, si erano ritirati e gli italiani avevano paura ad avanzare perché temevano fosse una trappola o qualcosa di simile. E così la città era in quella condizione. Questo compagno venne dunque a casa mia e mi disse: ehi, la guerra è finita. Poi disse: ieri stavo lavorando sulla mia barca, sistemando il fondo, aveva una piccola barca a remi o qualcosa di simile, e ho mollato lì tutti gli attrezzi, adesso vanno tutti in giro a rubare nei magazzini e tutto quello che trovano. Voglio andare a recuperare i miei attrezzi, dai, andiamo insieme. Era abbastanza distante, circa 1,5 chilometri. Stavamo camminando e mia sorella maggiore le avevo detto: forza, vieni anche tu. E insomma, stavamo camminando a braccetto, lui in mezzo e io e mia sorella ai due lati. Arrivammo in quel posto e sentimmo degli spari qua e là. E questo compagno che era con noi a un tratto cade per terra e si accascia. Pensavo stesse scherzando o qualcosa di simile, gli dissi: dai Mario, si chiamava Mario, dai forza Mario, alzati, non fare lo stupido. Morto sparato, senza capire da dove, chi o perché, morì lì. Ecco, questo era il mio fidanzato e dopo questo fatto mi venne il disgusto per tutto e poi fece l'irruzione sulla scena i fascisti, spuntarono ovunque e tutti erano spaventati, fermavano i camion, tiravano fuori la gente, la uccidevano o le facevano di tutto. Bruciarono anche il nostro edificio, cioè la camera del lavoro. Poi racconta insomma la situazione alla fine della guerra, perché questa intervistatrice è stata intensa, sì, non è tenuta a conoscere per filo e per segno. Dice: quando la Russia conquistò Leningrado, quando conquistavano qualunque città, dal 1918 in poi si celebrava la conquista con un giorno di sciopero. E questo è il motivo per cui, io credo, i fascisti riuscirono a alimentare l'espansione del fascismo. C'erano troppi disordini in ogni momento e per qualunque motivo. Lo sciopero a volte era insensato, capisci? E così è successo quello che è successo proprio in quel periodo. Ecco, di nuovo andiamo avanti alla camera del lavoro. Bruciarono la camera del lavoro. Ecco, la bruciarono e io ero arrabbiatissima. Quindi ho cominciato a riflettere. Attivi, bisognava essere più attivi. Dovevamo ripagare occhio per occhio. Non credo che quegli scioperi, quelle proteste, quelle robe mi interessassero molto. Andai al lavoro lunedì e scoprii che avevano bruciato la camera del lavoro nel fine settimana. Era il 1921. Andai al lavoro e ancora prima di arrivare ai cantieri incontrai un gruppo di persone fuori dalle mura, proprio di fronte ai cancelli. Allora chiesi: cosa ci fate qua? Risposero: hanno bruciato la camera del lavoro, non andremo a lavorare oggi. Al che risposi: io invece vado a lavorare. E aggiunsi: non credo starete in sciopero più di 1 o 2 giorni, perderete solo 2 giorni di lavoro e in cambio non otterrete nulla. Fate piuttosto la stessa cosa che hanno fatto alla vostra camera del lavoro. Se decidete di ricambiare, sono con voi, altrimenti me ne vado a lavorare. E così entrai anche. E anche loro, uno alla volta, entrarono a lavorare. Quando si fecero le 9 circa, un ingegnere venne a dirmi: «Ehi Maria, hai notato questa confusione che serpeggia nel cantiere?» Dissi: «Davvero? Dove?» Non sapevo cosa stessero facendo e così mi alzai e andai a vedere cosa stava succedendo. Tutti stavano scendendo per le scale per raggiungere il pian terreno in mezzo al cortile. Un gruppo di persone che conoscevo mi disse: «Che fai lì? Da quella parte ci pensiamo noi, tu inizia da questa parte. Brucia tutto, l'ufficio e chi ci rimane». Risposi: «Ci sto, ma vengo con voi, altrimenti non lo faccio». E così andai con loro e cominciamo a piccare il fuoco di qua e di là al magazzino. Il direttore saltò a terra, si ruppe una gamba e lo portarono in ospedale. Dato che cominciarono a scappare via tutti, pure i dipendenti, radunarono alcuni ingegneri che lavoravano nello stesso ufficio e li chiusero lì dentro. Mi avvicinai a loro e mi chiesero: «Hai dei fiammiferi?» Fumavo a quel tempo e così gli diedi i fiammiferi. Gli ingegneri rimasero lì tutto il giorno. A un certo punto chiese agli altri: «Beh, che pensate di fare? Perché trattenete queste persone? Cosa ne volete fare di questa gente? Non c'entrano niente con questa cosa. Vi identificheranno e finiremo tutti in prigione. Lasciateli andare». Così aprirono la porta per far passare delle sigarette e in cambio fecero uscire gli ingegneri. E così erano tutti fuori, mentre il cantiere bruciava come l'inferno. «Era pericoloso?» le chiede Audrey Goodfriend. «Non molto, perché era tutto di ferro. E così rimanemmo in tre, io e due compagni». Tre giorni dopo, un plotone di carabinieri si presentò a casa mia e mi arrestarono. Il giorno prima che arrivassero i carabinieri, tornai al lavoro e il guardiano che stava ai cancelli, il portinaio, quello che timbra il cartellino e quando entri ed esci, mi disse: «Cosa ci fai qua? Vattene, vattene, ti stanno cercando». «E perché mi stanno cercando? Non ho fatto nulla». «Stanno cercando proprio te, non entrare, non entrare». «Va bene, me ne vado». E così non andai a lavorare, ma il giorno dopo sono venuti a arrestarmi. In prigione eravamo in 6 o 7 e lì siamo rimasti. Mi liberarono dopo 2 mesi, mi liberarono, perché continuai a dire: «Non so niente, ho solo visto la confusione e sono andata a vedere cosa era successo, ma non so niente». E così mi liberarono. Fece il processo, ma furono tutti assolti perché non c'era nessuno che potesse testimoniare. È stato quello o quell'altro, sì, che potesse testimoniare, è stato quello o quell'altro, fu tutto il gruppo. Ecco, questa era l'esperienza, insomma, dell'incendio ai cantieri San Marco di Trieste, cosa che successe il 1 marzo 1921, in, diciamo, per vendicare l'incendio della Camera del Lavoro da parte dei fascisti, Camera del Lavoro di Trieste da parte dei fascisti. Yeah! E stiamo ascoltando anche tuttora in sottofondo questa band degli Stati Uniti, che tra l'altro loro sono i Behind Enemy Lines, oltre le vie, cioè al di là delle vie del nemico, insomma dietro le vie del nemico, le barricate del nemico, insomma quello che volete. Band che noi utilizziamo, un brano di questa band sempre come sigla iniziale di questo programma. Comunque questo è un altro album, insomma non ascoltiamo mai questa band, è statunitense, della Pennsylvania. Hanno fatto 3 album nella loro periodo di esistenza tra il 2002 e il 2006 e poi spariti così nel nulla, anche se alcuni componenti sono confluiti negli Ausrotten. Comunque questo è il loro album datato 2004, The Global Cannibal, e loro sono i Behind Enemy Lines. Oltre all'intervista, che comunque invito a andare a reperire, insomma a leggervi, che appunto si trova anche online sul bollettino dell'archivio Pinelli, esiste l'articolo stesso, rimanda alla scheda sul dizionario biografico degli anarchici curato online da BFS. Allora, ricavando notizie dal casellario politico centrale, cioè così dalle spiate dei vari infami infiltrati, diciamo fascistoni anche, che venivano appunto infiltrati nel ampio movimento di esuli italiani in Francia, antifascisti, si ricava la notizia che Maria Simonetti appunto nel 1925 si allontana con passaporto falsificato da Trieste e raggiunge Vitry-sur-Seine nei pressi di Parigi. Alla fine del 27 viene arrestata con due sovversivi italiani scassinatori di casseforti, e nel 28 poi la polizia belga la indaga per un delitto, cioè per il ferimento di un infame compiuto a Liegi, ma e la Maria viene arrestata, si fa qualche mese di galera a Versailles e quando la rilasciano, scrivono gli sbirri, nell'ottobre 28 viene messa in libertà. Secondo una fonte confidenziale, gli anarchici italiani esuli a Parigi la vollero festeggiare con un banchetto, nel corso del quale la Simonetti ha esortato i compagni a perseverare nella lotta e a essere pronti a vendicare i compagni morti per la causa. Poi insomma si trattiene ancora qualche anno in Francia, come si può dire, qua ci sono delle, sto cercando di tradurre le porcherie che scrivono gli sbirri, che però ecco una cosa che a me urta, che viene è stata ricopiata sulla scheda, e diciamo ha una, sì, tra gli altri compagni ci sono anche, c'è anche Sant'Epollastro, ecco, con cui svolge attività politica fino al 1930, in cui appunto collabora attivamente al gruppo della Dunata dei Refrattari, e secondo gli sbirri istigatrice del gesto di Michele Schirru, cioè un tentata eliminazione di Mussolini, e poi niente, si continua attivamente a supportare le attività della Donata dei Refrattari, che era un bollettino appunto degli anarchici italiani negli Stati Uniti, e che però appunto era diffusa in varie parti del mondo, anche in Europa. E sì, si stabilisce nel New Jersey. Ultima cosa, che si sa insomma anche dall'autobiografia di Tommasini, che a un certo punto Tommasini, in fuga diciamo dai campi di internamento francesi dopo la disfatta, ecco, della rivoluzione spagnola, è costretto a chiedere un aiuto economico, e nonostante le divergenze politiche, il gruppo della Dunata dei Refrattari tramite la Simonetti manda una sostanziosa somma a Tommasini, che la utilizza immediatamente, e poi ecco, continua insomma il resto di quello che succede negli Stati Uniti. Nella vita di questa compagna non si sa. Oltre al casellario del Ministero dell'Interno c'è anche un'intervista non pubblicata, rilasciata a Claudio Venza nell'autunno del 71, in quanto Maria Simonetti ha compiuto dei viaggi finché era in vita anche in Italia, e nella fattispecie a Trieste, oltre che appunto essere citata qualche volta anche da Simonetti, anche da Tomasini, scusate, che aveva ha tenuto una corrispondenza insieme a questa compagna. Ultimissima cosa che ci tengo a dire, che troviamo però nella parte online dell'intervista, che io dopo averla sfogliata adesso non riesco più a reperire, non so se l'hanno oscurata o cosa. Comunque, in un certo punto, sì, perché l'intervista è lunga, è solo una parte nel bollettino, il resto così, svolgeva anche altre considerazioni sul in particolare sul appunto su questa cosa di essere una ribelle e perché si ribella, la richiesta di capire il motivo per cui si era ribellata, insomma la prima impressione che insomma il primo motivo, il motivo più importante per cui si era ribellata, ecco, la richiesta da parte dell'intervistatrice, lei dice: secondo me insomma è una cosa innata, è il fatto di non accettare le cose come invece fanno tutti gli altri, no? Non poter sopportare, ecco, di accettare le cose passivamente. Un'altra cosa importante su cui appunto avevo preso un appunto, però non posso citarvi testualmente, è sul coinvolgimento come donna, no? Alle lotte, in questo caso qui le lotte anarchiche, le azioni eccetera, che insomma una cosa così detta con sincerità, anche con, e che dà anche insomma, che da pensare insomma, fa un po' schifo, che quando lei veniva arrestata, racconta un aneddoto che insomma un secondino, chi per lui una guardia, ha aperto il portone della cella, e dando per scontato che essendo una che faceva politica era disposta a qualunque tipo di commercio e anche quindi era una donna così di facili costumi, diciamo così, una cacciatrice di uomini. Questa roba qua, lei, oltre che farle schifo e aver cacciato questo tizio, è una cosa che insomma di cui era cosciente e che ci tiene, ecco, a raccontare. Ultima cosa, anche il suo disinteresse per insomma di fondo per tutte queste domande che le pone l'intervistatrice, perché secondo la sua sensibilità, insomma, lei dice: io so già cosa ho fatto, so ben precisamente quello che ho fatto, e non mi interessa quello che dicono gli altri di quello che ho fatto io. Ecco, di andare a vedere le considerazioni, cioè racconta proprio l'incontro con un giovane Venza che gli diceva che aveva raccolto un bel po' di materiali già sul, insomma, stava già lavorando al libro su Tomasini, e quindi le aveva detto: guarda che noi abbiamo, cioè che io ho raccolto cose anche su di te, di quello che probabilmente quello che diceva la polizia, no? E lei le risponde: bom bom, ma a me che me frega, io so quello che ho fatto, non mi frega le versioni degli altri, soprattutto di questi altri, ma in generale non mi interessano insomma ricostruzioni storiche, no? Non sono interessata alle biografie. Questa era una cosa che, ecco, a me aveva colpito. E dopo questa lunga così digressione, affronteremo il prossimo argomento dopo questo brano musicale. We'll be right back. altered, distorted, misquoted, a ready-made victim to be used. Ecco, come avrete capito, stasera siamo un po' in formazione ridotta. Io vi chiedo scusa per la monotonia, insomma, le tante chiacchiere che sto facendo sempre io. Ecco, però, ecco, purtroppo va così stasera. L'altra cosa che ho preparato, che cercavo di collegare, insomma, con questa esperienza di questa compagna così, così bella, così, racconto così bello, era una corposa analisi fatta, insomma, che è fatta molti anni fa, comunque, ecco, diciamo alla fine degli anni '80, esce questo libro, L'incendio millenarista, curato da due, insomma, firmato da due pseudonimi, e però esito, diciamo, di un gruppo attivo soprattutto nella lotta contro le carceri, con azioni e attacchi alle strutture. Un gruppo rivoluzionario, si chiamava Os Gangaceiros, ed era attivo principalmente in Francia negli anni 70, e appunto riprendeva tutta una serie di tematiche da critica radicale, intesa nel senso italiano, quindi quello che abbiamo menzionato più volte, del quella che fu appunto l'UD, il gruppo appunto dove partecipò anche Giorgio Cesarano e soprattutto comuntismo, ecco. E queste tematiche sono riprese in ambito francese da questo gruppo, si chiama Os Gangaceiros, che appunto alla fine degli anni 80 pubblica questo L'incendio millenarista, ed è la prima traduzione integrale in italiano, esce in quest'anno, una coedizione Tabor Malamente. Ecco, è un librone che riprende varie questioni, insomma, ampio, diciamo, un inquadramento molto ampio, però non interessa, insomma, darò solo una, diciamo, presentazione partendo dal primo capitolo, e un capitoletto invece dedicato all'anarchismo andaluso, che tratta del percorso fatto, insomma, dell'anarchismo nella regione dell'Andalusia in Spagna tra la fine dell'Ottocento e fino alla rivoluzione spagnola. Ecco, partiamo allora da questo tema del millenarismo. Cosa si intende? I movimenti millenaristi sono quei movimenti che cercarono durante tutta la storia di realizzare la religione senza sopprimerla. Vuol dire che sono rimasti dentro l'immaginario religioso, e questo, insomma, significa che furono condizionati, influenzati dalla visione religiosa che stavano cercando di criticare, ecco, diversamente dalle eresie, che erano, diciamo, un discorso di ve lo dico, ecco, così in maniera radiofonica, di principio, più di principio, su, appunto, fissata su certe definizioni date all'ortodossia o all'eresia religiosa. La questione del millenarismo è di considerare quelle che erano le attrattive promesse da una visione religiosa del mondo. Io la dico io con le mie parole, quella che era la trascendenza, appunto, quindi la possibilità di un ordine diverso, diciamo, o un tipo di esperienza diversa del mondo, queste attrattive che erano promesse dalla visione religiosa cristiana, partendo dal presupposto che nel Medioevo erano di dominio collettivo, come sappiamo, insomma, il Medioevo è in Europa è un'epoca imbevuta di spirito cristiano, diciamo così, della visione religiosa che permea ogni aspetto della vita, si impara anche a scuola questo, e partendo dal fatto che appunto era di dominio collettivo questo tipo di visione, dice l'introduzione a questo incendio millenarista, sussisteva una possibilità che la religione potesse trasformarsi in strumento di unificazione. E qui parte il confronto con la società spettacolare, no? La società dello spettacolo, così esplicata da Guy Debord alla fine degli anni 60, abbiamo detto anche altre volte con uno slogan, non è la società dello spettacolo nel senso la società dell'apparenza, è lo spettacolo, è il soggetto della società. La società è dominata dallo spettacolo, ogni tipo di aspetto, che sia insomma qualunque tipo di anche virgolette spontaneità degli individui cade sotto il dominio spettacolare, cioè ha un carattere di mercificazione. Non c'è scampo alla società spettacolare, che però è strutturata non su un'esperienza collettiva, come era appunto la trascendenza del cristianesimo medievale, ma su un tipo di esperienza solitaria, cioè fatta di folle ma solitarie, ognuno a casa sua col televisore acceso in quel momento, appunto, fine anni 60, oggi ancora più evidente, ancora più drammatico o tragico, ognuno davanti allo schermo dello smartphone. E siccome è già un po' che parlo, ultimo intervento dopo il prossimo brano. Eccoci, 21 e 17 di questo giovedì 29 agosto per Zardis Magnetics, state ascoltando la mia voce, vi sto raccontando di questo, un capitoletto di questo L'incendio millenarista, che tra l'altro trovate in distribuzione allo spazio autogestito di via dei Rubeis a Udine. Se siete in zona, L'incendio millenarista tra Apocalisse e Rivoluzione, coedizione Malamente e Tabor. Allora, a me interessava appunto fare questo parallelo con gli anarchici dell'Andalusia, perché appunto ci sono degli aspetti così in sintonia con la vita della compagna adunatista triestina di cui abbiamo parlato prima, Maria Simonetti. Allora, partiamo dalla fine. Ecco, in seguito alla propaganda di Bakunin, in particolare di Giuseppe Fanelli, a partire dal 1868 si diffonde la teoria e la pratica, diciamo, il pensiero, la critica e l'azione di tipo anarchico nella regione appunto della provincia di Siviglia. Siamo nel sud-ovest estremo della Spagna, nell'ultimo tratto del fiume Guadalquivir. Allora, tutto questo, insomma, perché per ragioni sia sociali sia anche appunto, come abbiamo detto, di prospettiva, così chiamiamola, substrato socioculturale, ecco, di quella popolazione là, dove la Spagna, ecco, è rimasta molto influenzata dal cristianesimo, dallo spirito del cristianesimo, nel senso molto a lungo, più di altri paesi che hanno svoltato, diciamo, con le guerre di religione già, e con gli stati, insomma, moderni, perché appunto hanno avuto un clero, insomma, che stava dalla parte, fra virgolette, dei poveri nel momento in cui lo Stato invadeva, appunto, diventava invasivo più che li invadeva, perché comunque c'era sfruttamento, c'era miseria, c'era tutta una serie di cose, però c'era una tendenza a farsi un po', ecco, di non interessarsi, di non occuparsi, ecco, delle questioni politiche, nel senso delle vicende dello Stato, no? E quindi non entrare, ecco, in questa dinamica che la borghesia voleva imporre, e rimanere appunto su un orizzonte di individuale anche, però di, ecco, piccola comunità, e di dove appunto contava la libertà individuale e la dignità, ecco, più di tutto. E nel momento in cui la Chiesa abbandona, insomma, nel momento in cui a metà 800, diciamo 1822, c'è parte un programma di trasformazione liberale anche in Spagna, insomma, vengono cominciati, si comincia a alienare determinati beni, no, della Chiesa, in quel momento coprivano quasi l'intero paese le proprietà ecclesiastiche, e in quel momento lì appunto corrisponde all'inizio della propaganda di Bakunin, e quindi che ha un certo successo, perché Bakunin intuisce questa affinità, ecco, che c'era nel sensibilità contadina, ecco, rurale, ecco, nell'ambito andaluso. E si prospetta facciamo uno schema, e la differenza qual è, insomma, tra gli andalusi e i catalani? I catalani partono, appunto, industrializzata la Catalogna, partono con le lotte sindacali, sì, facciamo un salto adesso al Novecento, all'inizio del Novecento. Insomma, gli anarchici andalusi non sono per niente industrializzati e continuano appunto mettono in piedi delle lotte che sono di un altro tipo, sono basate su azioni violente e sabotaggi. Gli scioperi, se vengono praticati, non sono un piano di rivendicazione, ma sono scioperi di rottura e con l'obiettivo di estendere, insomma, alla tutta la regione il blocco, ecco, delle attività lavorative. E non c'è appunto una forma organizzativa di tipo appunto strutturata in federazione, e invece c'è un tipo di organizzazione su base gruppo di propaganda, piccolo gruppo locale di propaganda. Ecco, quindi si ha, vi do solo queste, insomma, linee un po' schematiche, poi volevo solo leggere un pezzetto del racconto. Ultima cosa, appunto, c'è questa condivisione dello spirito antimoderno che rimane, ecco, negli anarchici dell'Andalusia, e appunto, come dicevo prima, che prosegue questa continuità sul tenere, insomma, in primo piano la libertà e la dignità individuale. Ecco. Dicevo che andavo a leggervi un pezzo, in particolare, ecco, una lotta che viene fatta nel 1933, quindi prima della rivoluzione. Nel gennaio 1933 il progetto di sollevamento generale organizzato dalla Federazione Anarchista Iberica trovò in questa regione terreno fertile. Il 4 gennaio, in seguito all'arresto di due lavoratori, i ferrovieri del deposito di Jerez si estennero dal lavoro. Lo stesso giorno gli operai, panettieri e gli operai agricoli della città e dei dintorni proclamarono uno sciopero che durò fino al 14 gennaio. L'8 gennaio a Cadice una partita di calcio degenerò in scontri con la polizia e il giorno seguente lo sciopero fu generale in diverse zone. E faccio un elenco. La tattica della FAI godeva di buon credito tra i contadini andalusi. Per i faisti la spontaneità rivoluzionaria delle masse rurali, non corrotta dalla politica e dal riformismo sindacale, sarebbe stata il crogiolo della rivoluzione a venire. Gli andalusi, da parte loro, non avevano mai atteso alcun miracolo dalla Repubblica. Non lo attendevano, in vero, che da se stessi, dalla loro determinazione. Casas Viejas era un miserabile villaggio a metà strada tra Jerez e Algeciras. La malaria e la fame vi infierivano da sempre. Le terre circostanti appartenevano al conte di Genil. Una legge agraria prevedeva di confiscarne e redistribuirne una piccola parte, ma il governo Azagna non aveva mai osato farla applicare. Gli abitanti di Casas Vejas, come in tutti gli altri pueblos andalusi, avrebbero dovuto attendere la notizia del successo dell'insurrezione a Barcellona per sollevarsi a loro volta. Ma la gente fremeva, impaziente di farla finita in un modo o nell'altro. Nei giorni precedenti le più folli voci erano circolate nella regione, facendo credere che diversi villaggi avessero già dichiarato il comunismo, che le terre stavano per essere pignorate, insomma, che il gran momento era infine giunto. A Casas Viejas un vecchio anarchico assai rispettato stabilì che tutto era pronto e che l'avvento del comunismo libertario era ormai sicuro. Trasmise il proprio entusiasmo a parenti e amici. Armati di bastoni e di fucili da caccia, scesero in gruppo ad assediare la guarnigione della Guardia Civile, composta da quattro uomini che rifiutarono di arrendersi. Due gendarmi vennero uccisi. In paese fu issata la bandiera rossa e nera. I ribelli si impadronirono delle armi e degli esplosivi e bruciarono tutte le carte amministrative. Nella comune noi abbiamo quale compito iniziale la distruzione degli archivi e di ogni traccia scritta della schiavitù, si leggeva su un giornale anarchico locale poco tempo prima. Il dazio municipale venne anch'esso incendiato. Il giorno seguente l'esercito, supportato da aeroplani, circondò il villaggio. Il vecchio Curro Croz e i suoi sodali, comprendendo che altrove il movimento aveva fallito e vedendo che la partita era persa, mandarono gli abitanti a nascondersi sulla montagna. Restarono solo i coscientes, barricati i militanti più coscienti, barricati all'interno di un'abitazione. 90 guardie d'assalto la circondarono. Il primo che osò farsi vedere fu ucciso sul colpo. Dopo una sparatoria durata 12 ore, le guardie ricevettero l'ordine espresso dal Ministero dell'Interno di incendiare la casa. 8 persone perirono nell'incendio, ma questo tributo non placò il ministro Quiroga e di lì a poco altre 13 persone, tra cui un vecchio invalido, vennero arrestate in altre abitazioni e uccise a freddo. Lo scandalo suscitato da questa vicenda fece cadere il governo Azaña e con lui il ministro dell'interno Quiroga. I socialisti che sostenevano questo governo furono evidentemente ritenuti corresponsabili e guadagnarono ancora maggiore impopolarità fra i poveri. La fine della vicenda di Casas Viejas non placò la collera generale. Nel giugno 1933 ci fu uno sciopero generale di braseros nella bassa Andalusia, subito represso, in particolare nelle province, eccetera. Gli scioperanti chiedevano una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, richiesta che comunque venne soddisfatta. Alle elezioni del novembre l'astensionismo fu massiccio, incoraggiato da un appello dal CNT. Nella provincia di Cadice raggiunse il 65%, poi a dicembre una nuova rivolta scoppiò in Aragona. Su incitamento dei faisti, gli andalusi fecero eco moltiplicando scioperi e incendi di chiese, eccetera. Insomma, racconta questo aneddoto, insomma, particolare, insomma, gli anni preparatori alla rivoluzione spagnola. Siamo arrivati veramente agli sgoccioli. Io spero di aver fatto, insomma, un pezzo di strada insieme a voi questa sera, raccontandovi queste storie qui, e non sempre le storie, appunto, sono storie, perché non sono così ancorate a così col cemento a analisi di tipo socio-economico, di tipo, che ne so, anche volendo, di altro genere. Sono esperienze di vita che contengono delle, possiamo dire, delle, usiamo questo metafora un po' abusata, comunque sono delle, contengono questi amuleti, insomma, contengono questi oggetti che permettono di rimandare ad altro, ecco, anche sul presente, e anche alla possibilità di poter ricavare delle riflessioni, delle critiche e delle correzioni, ma anche delle spinte, delle, diciamo, incoraggiamenti ad agire nel presente con determinazione. Vi saluto per questa sera, abbiamo concluso, e al prossimo giovedì con Jardins Magnetics. Bene, siamo strettissimi proprio con il tempo, anzi abbiamo anche sforato l'orario a nostra disposizione, che ricordo, questo programma Jardins Magnetics, ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, trasmettiamo ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21:30, anche oggi 29 agosto 2024, e ricordo anche i nostri contatti se volete scriverci tramite posta elettronica. Fatelo scrivendo a liberetutti@autistiche.org, oppure potete anche scriverci in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo che questo programma e quelli anche delle volte scorse potete trovarlo in rete andando su jardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, ciao a tutti. Vi dico che in sottofondo, ma anche prima, abbiamo ascoltato i Chumbawamba da questo loro album datato 1986, e anche salutiamo chi ci ascolterà domani in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì.